A tempo di sport con Carlo Genta. Squadra matta, matta da legare. Ai, ai, assì, assì, e nessuno ci potrà fregare. Ai, ai, assì, assì. Brava Vale, brava. Direi discreta partenza di Valentina Vezzali, 5-2. Bravissima! E tocca ancora questa volta Elisa, sì. Di Francesca. Oh, questa è una bella parata di risposta. Una bellissima parata di risposta di Ilaria. 34-17. Forza Ila. Arianna, 8-2. Eccola qui, l'urlo di Valentina Vezzali che bacia la pedana. È nella leggenda, l'Italia del fioretto è nella storia. Fantastica medaglia d'oro. Beh ragazzi, fanno paura, meritano ogni tipo di copertina queste quattro ragazze. Di Francesca, Enrico, Vezzali, Ilaria Salvadori. Qualcosa di fin troppo facile per essere vero. Lo stesso Cerioni, CT del fioretto, ha detto una superiorità imbarazzante, ma fin dalle prime battute di questa competizione. Non so se sia la medaglia d'oro più bella, certamente questa Olimpiade per queste quattro ragazze è stata un tributo straordinario. Dario Ricci, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti da Londra. Beh, questo qua è un dream team, questo qua è il Brasile del calcio, è gli All Blacks del rugby, è un quadro di Picasso, perdona l'enfasi, ma quello che si è visto gli ieri Stati Uniti del basket. Del basket, assolutamente. Quello che si è visto ieri è stata la metafisica dello sport, perché in proporzione di 45 stoccate che abbiamo messo a segno, che hanno messo a segno le ragazze in finale, credimi, 37 erano di un livello assolutamente superiore. Sì. Abbiamo visto le cifre, no? Elisa Di Francesca in tutta la serie del torneo, bilancio della stoccate date e prese più 31, in finale più 10, cioè così si fa scherma solo in paradiso, oppure sì. A Londra. Oppure a Londra, però restano praticamente due podi nel fioretto femminile riempiti nella loro totalità. Non mi interessa tanto cercare precedenti, cercare record e sfogliare il libro, mi interessa quelle istantanee, quelle immagini e la sensazione. Prima nel bellissimo montaggio di Franco Piantanini abbiamo sentito questa aca che si sono inventate loro, no? E che cantano loro. E dà anche l'idea, insomma, senza star lì a far troppa retorica, perché ci sono anche rivalità ovviamente vere, no? Agonistiche, sportive, perché la Vezzali non vorrebbe perdere nemmeno con sua figlia, però questo è un gruppo, a differenza di, torno sullo stesso esempio, quello del nuoto, che non è riuscito ad esserlo, Dario. Direi proprio di sì, soprattutto è un gruppo, diciamo, molto moderno, perché riesce a lavorare su progetti. Sicuramente sappiamo quante forti siano le rivalità in questa squadra, pure tra due buonissime amiche come Arianna Enrico e Elisa Di Francesca, per non parlare poi tra la stessa Elisa e Valentina Vezzali, così come Ilaria Salvatori credo che sarebbe titolare in qualsiasi altra formazione, quelle che sono scese in pedana ieri. Ebbene, queste ragazze prima del torneo hanno detto una sola luce, cioè nel senso puntiamo a un solo obiettivo, e soprattutto la parola d'ordine è stata quella di mettere subito al sicuro la medaglia d'oro, anche per far salire in pedana la Salvatori. Direi che dopo tre assalti eravamo sul 20-8, Carlo. Sì. Stavamo pensando se farla Ola o se farla la Samba, insomma, stiamo scegliendo Superiorità imbarazzante lungo tutto lungo tutta la competizione, perché hanno saltato proprio in maniera netta ogni ostacolo. Dario, sai quanti italiani hanno visto la finale del fioretto femminile ieri sera in televisione? Dimmelo perché non l'ho visto. Dico 6 milioni? Quasi, 5,8. Sei andato vicino, bravo. Meglio di Campriani sul bersaglio oggi. Oggi sul bersaglio non benissimo. Sì, oggi ottavo posto per Niccolò nella carabina dai 50 metri sdraiati. Non è esattamente la sua specialità, era entrato in finale come sesto, poi ha avuto un passaggio a vuoto tra il sesto e l'ottavo tiro, 9-8, 10-1, 10-1, che a questo livello sono quasi degli errori, non dico clamorosi, ma a quel livello. Per cui... Caduta la voce di Dario Ricci, che adesso recupereremo, intanto aspettiamo anche le vostre di voci, 800-24-00-24, numero verde, messaggi 349-238-6666, di messaggi ce ne sono già tantissimi, come questo di Maurizio: ragazze d'oro con il 50% delle medaglie conquistate fino adesso. Sono delle fuoriclasse che si confermano ad ogni competizione e non c'è dubbio. C'è anche Carlo che scrive: mi perdoni la battuta, ma salvo rare eccezioni, ma senza armi e pugni, gli italiani o le italiane sanno vincere le medaglie? Sanno vincere le medaglie, naturalmente ci sono degli sport in cui siamo più forti. Ad esempio, rimanendo sulle pedane e sui risultati di oggi, sappiamo vincere le medaglie ad esempio nuotando, ad esempio andando in canoa, come abbiamo dimostrato ieri. Tra l'altro più tardi sarà nostro ospite, dovrebbe essere nostro ospite, perché il condizionale lo uso sempre quando ci sono i telefoni di mezzo, un'altra medaglia di questa Olimpiade, anzi la prima medaglia di questa Olimpiade, cioè la pistola d'argento di Luca Tesconi. È tornato Dario Ricci giusto in tempo per parlare di quello che è successo invece questa mattina, sempre su quelle pedane di scherma, perché iniezione di adrenalina mattutina, Dario, con gli uomini della sciabola e con Aldo Montano, che si è ricordato di essere un fenomeno. Ma Aldo ce l'ha questi numeri per spiegare. Sotto l'ultimo assalto 44-40 contro la Bielorussia, in pedana Montano che piazza 5 stoccate consecutive e ci porta in semifinale fra pochissimo contro la Corea del Sud. Nel tennis sarebbero stati 4 match ball annullati, perché bastava una stoccata al bielorusso per farci fuori, e Montano non aveva altre chance, spalle al muro, e si è ricordato di essere un campionissimo. Sono le situazioni che Aldo preferisce, e tra l'altro è anche la testimonianza che probabilmente quel grave infortunio muscolare che lo ha tenuto in sospeso fino alla vigilia dell'Olimpiade è recuperato. Ora attenzione, perché il torneo a squadre anche dal punto di vista fisico è una sollecitazione mica da ridere, e quindi sicuramente, e tra l'altro la Corea è una delle grandi potenze in pedana. Ma con l'adrenalina che abbiamo addosso, io li aspetto i coreani alle 14:30. Stavo ridendo perché senti questo messaggio. Da un paese di provincia di Cremona, senza tradizione di scherma, ieri sera si sentiva esultare per le strade, per le stoccate italiane, come nemmeno ai rigori dei mondiali del 2006. Non male, eh? Dicevamo 45-44 grazie alla clamorosa rimonta di Aldo Montano, e sfidiamo la Corea per la semifinale. Sentiamo Occhiuzzi, Tarantino e Montano, uno dietro l'altro. Abbiamo questo ragazzo che è un fenomeno, ogni tanto si dimentica che è un fenomeno, ma lui lo è. È un grande, e ora sappiamo che possiamo contare anche su di lui. Io sono tesissimo, si vede sicuramente. Però lui ci ha regalato quest'altra chance e quindi la dobbiamo sfruttare. Siamo ancora dentro, sì, in queste situazioni c'è poco, però per una stoccata siamo dentro. Speriamo di continuare così, io sto tirando bene, questa frazione l'ho fatta bene. Bisogna tirar fuori più un gruppo, una squadra, e ora secondo me dopo in semifinale riusciremo a tirare bene tutte e tre. C'è poco da dire, bisogna stare concentrati il più possibile, togliere quelle paure che a volte, sai, sono incondizionate. A me non è capitato oggi, a Gigi sì, nel primo incontro, speriamo che durante la mattinata si sciolga parecchio. Dunque, Occhiuzzi, Tarantino, Montano, altro messaggio che così ci porta a una discussione che faremo dopo? Questo, ieri che emozioni, prima le ragazze del Fioretto, poi giro sulla 7 per vedere cosa fa l'Inter e sento la voce di Bruno Pizzul. Che bello, buona Olimpiadi, scrive Emi da Bergamo. Sì, Bruno Pizzul che è tornato ieri per commentare Inter Hajduk Spalato, Hajduk Spalato Inter, questo 0-3. E io prima, scrivendo delle cose, ho definito le sue telecronache come un abito blu che non passa mai di moda. Io non sono uno particolarmente legato al passato, non sono uno di quelli che diceva si stava meglio quando si stava peggio, era tutto più bello prima, adesso che schifo. No, per niente, perché cerco di seguire anche i ritmi dello sport, che sono profondamente diversi, così come i ritmi delle telecronache. Però le telecronache di Bruno Pizzul sono un grande classico. Ieri sera abbiamo avuto il piacere di riascoltarlo. Luca da Torino è il primo ascoltatore di oggi, poi c'è una diatriba via SMS: se scoppiasse una guerra medievale tra frecce e spade saremmo imbattibili, scrive un ascoltatore. Risposta di Mirko: in risposta al signore di poco fa, se anche fosse così, i pugni e le armi bisogna saperle usare. Ciao passo. Luca. Sì, anche per... buonasera innanzitutto, sconfuggente, anche perché il mitico Pizzo, la frase, il suo intercalare classico era: la squadra sta giocando con un ottimo discernimento, diciamo così. Sì. Oppure quando comincia la gara, palla al centro, partiti. Un grande accanimento. Senza andare a bere il tè caldo all'intervallo. Sì, no, volevo dire, appunto, le ragazze mi hanno fatto piangere di gioia perché è una squadra fantastica, anche perché poi proprio si vede lo spirito olimpico per eccellenza. Mi dispiace che in questo spirito olimpico potrebbe esserci anche una tregua olimpica, così diciamo, nel calcio, ma si vede che proprio a qualcuno piace esasperare e non accettare certe regole. Ci sono altre faccende da risolvere. Tregua olimpica mi sembra eccessivo. La tregua olimpica c'era in tempi di guerra, qui siamo in tempi di polemiche, siamo in tempi di calcio scommesse, insomma non era possibile chiedere tregua olimpica, anche perché bisogna fare la svelta, non so come da quelle parti lì, però bisogna fare la svelta. Intanto oggi saprete, altra giornata campale, accettate dalla disciplinare le richieste di Palazzi di patteggiamento, Masiello 26 mesi, Parisi 2 anni, Rossi 1 anno 8 mesi, Bortolo Muti 4 mesi, 5 punti di penalizzazione al Bari, 1 alla Sampdoria. Intanto c'è il processo di ci sono Ranocchia e Gillet che si sono presentati a Bari per parlare con i carabinieri. Ranocchia si è avvalso della facoltà di non rispondere, si è appellato al quinto emendamento. La nostra pistola d'argento, Luca Tesconi. Ciao Luca. Ciao a tutti. Prima medaglia di questa Olimpiadi, raccontaci come la stai vivendo questa medaglia, dove la tieni e cosa ne fai, tutte queste cose. Per ora questa medaglia è sempre con me, praticamente viaggia insieme a me. Viaggia insieme a te? Viaggia insieme a me, sempre in tasca. è stata una grande emozione, soprattutto perché anche insomma la prima medaglia, quindi penso che rimarrà più nella storia come prima medaglia piuttosto che l'argento. Sì. Come stai vivendo questi giorni? Sei a Londra? Sei tornato a casa? No, sono appena tornato. Sono tornato ieri sera. Adesso sto andando a casa, dove mi aspettano, penso, un po' tutti i miei amici. Io non so se sarà gruppi. Non so se sarà più dura il ritorno a casa o portare ovviamente la gente. Infatti, guarda, mi sto veramente preparando mentalmente ad affrontare il ritorno. Non so cosa può accadere. Mi hanno telefonato in tantissimi, mi hanno detto che Pietrasanta era bloccata. Ho attrezzato maxi schermi sul lungomare, erano tutti fermi a guardare la finale, nemmeno mi hanno detto nella finale dell'82 di calcio c'era così tanta gente. Questo lo posso immaginare. Intanto ieri so che su Twitter hai messo la foto della medaglia con scritto: oggi ti porto in Versilia. Sì, esatto, che poi non era oggi, sarebbe stato domani, però insomma non ce la facevo a tenermelo dentro. Senti, ti lascio ad una domanda del nostro inviato lì a Londra, Dario Ricci, che ha raccontato la tua gara e la tua medaglia. Dario. Allora Luca, intanto complimenti, insomma direi che non c'è bisogno della scorta per la medaglia vista la precisione della tua pistola. Ecco, guardando al proseguo della, della nostra Olimpiade, da quel poligono, dalle Royal Artillery Barracks, cosa ancora può arrivare? Abbiamo visto oggi Nicolò che non è riuscito a ripetersi, ma in una specialità che non era certo quella a lui più adatta. Infatti, ora tu saprai anche del silenzio olimpico, quindi non posso nemmeno espormi troppo e parlare di altri tiratori. Però insomma, Nicolò non era la sua specialità quella di oggi. Spero insomma più avanti che secondo me altre medaglie possano arrivare. Lo speriamo anche noi, magari dalla spada. A proposito, tu straordinario, ma le fiorettiste, leggenda. Sì, hanno fatto veramente una grande impresa. Senti, ti voglio chiedere ancora una cosa, sì. Luca. Molmenti si è portato a casa una Ducati e un appuntamento a cena con la Pennetta. Infatti, tu? Io per adesso niente. Come niente? Per adesso niente, vedremo più avanti cosa mi capita. Come ti sei trovato a Londra? Villaggio Olimpico, organizzazione, come ti è sembrata questa vita da giochi? Organizzazione, il Villaggio Olimpico, sono stati bellissimi i primi giorni che siamo arrivati, che praticamente eravamo solo noi e poi poche altre nazioni, quindi avevamo praticamente tutto il Villaggio Olimpico per noi e quella è stata veramente una bellissima emozione forte, che penso che insomma, me la porterò sempre dentro, oltre che alla grande finale che ho fatto. Un'ultima cosa, ma calcisticamente come sei messo? Malissimo, non seguo il calcio. Grande Luca Tesconi. Grazie. Senti, grazie. Ci sentiamo nei prossimi giorni, perché sono diciamo simpatizzante Juventus, ma non seguo il calcio. Non segui il calcio. Senti, io sono un po' preoccupato per il tuo arrivo a Pietrasanta, quindi nei prossimi giorni ci sentiamo e voglio capire cosa ti è successo. Tanto grazie per quella medaglia, a nome di tutta l'Italia. Ci mancherebbe, grazie a voi. Grazie Luca, un abbraccio. Luca Tesconi, pistola d'argento, la prima medaglia della spedizione azzurra. Dario Ricci. Eccoci. Dario Ricci, altri risultati di oggi. Nel canottaggio poteva andare meglio. È veramente mancato pochissimo a Mornati e a Carboncini per arrivare a medaglia nel due senza, una gara bellissima tra l'altro, in cui ha avuto la meglio poi l'equipaggio neozelandese davanti alla Francia e alla Gran Bretagna. Mornati e Carboncini sono stati in corsa con una splendida frazione centrale, hanno recuperato fino agli ultimi metri, poi però il bronzo è sfuggito per poco più di un secondo, quindi però onore ai due azzurri, perché veramente hanno fatto una finale gagliarda, però medaglia di legno stavolta. Medaglia di legno, poi c'è stata anche una polemica per una presunta invasione di corsia dell'armo britannico che avrebbe invaso la corsia dei neozelandesi. Però, tutta onestà, chi gliela leva la medaglia alla Gran Bretagna? Dai, siamo realisti. Siamo realisti più del re. Siamo realisti più della regina, nel caso. Della regina. Poi, la Mantia. Oggi primo giorno di atletica. Primo giorno di atletica davanti a uno stadio tutto esaurito fin dal mattino, anche se il tempo è stato inclemente, pioggia fortissima. Sulle prime gare, sul lancio del martello eccetera, la Mantia nel triplo donne eliminata, mentre Libana Grenot ha conquistato in maniera piuttosto agevole la semifinale dei 400 metri, terzi in una batteria corsa anche se vogliamo al risparmio delle energie. Una buona notizia invece dal nuoto, che è quella di Gregorio Paltrinieri, che si è qualificato per la finale olimpica dei 1500 stile libero, che sarà domani, dominando la sua batteria, ma letteralmente dominandola. Il tempo è 14:50:11, ma non ha spinto nemmeno fino in fondo e da Paltrinieri, chissà, da questa nuova generazione può arrivare in extremis l'unico sorriso, mentre per il resto sono musi lunghi da morire, con la Pellegrini che questa mattina ancora dice cose del tipo: le frasi di Filippo sono arrivate in maniera negativa, ma certo non si meritava le critiche di alcuni suoi compagni. Spero solo siano stati fraintesi anche loro, perché non ci si può attaccare a questo per spiegare il fallimento olimpico. Vorrei evitare di commentare quello che è successo, almeno in TV, però quello che dici non può essere riportato fedelmente questa la richiesta, se lo faceva per difendere il suo fidanzato. Tensione inventata, tutto chiarito, niente polemiche, le polemiche sono campate in aria, continua a dire Federica. Insomma, aggrappiamoci a Greg Paltrinieri. Fabrizio, Ancona, provincia di Ancona. Iesi in particolare. Allora gioca in casa con le fiorettiste, con la scherma. Sì, vabbè, io ieri sono stato come molti altri italiani davanti allo schermo e ho avuto la pelle d'oca per i primi 5 minuti, perché era proprio, c'era una differenza veramente abissale, tipo Team USA contro Nigeria, 150-70 la sera poi di basket. Sì. E io sono molto orgoglioso di quelle ragazze, delle due Isine in particolare, che sono comunque due personaggi completamente diversi, si vede già in TV, però nella loro diversità sono veramente un team incredibile, che ha una grinta secondo me esagerata, ci potrà regalare ancora tante soddisfazioni, e sono convinto che la Vezzali andrà a Rio de Janeiro comunque. Poi l'ha detto anche ieri. Possa arrivarci in condizioni. No, appunto. Io spero che di vedere Valentina Vezzali alle Olimpiadi di Rio, a quelle dopo e per altre 10 ancora. Però l'importante è, sarà, insomma, ma lei sarà la prima a rendersene conto, arrivarci non per. Per tentare, non per figurare, eccetera, ma arrivarci da, insomma, per vincere, e su questo qualche dubbio. Ma lei sarà certamente la prima a rendersi conto di quanto sia possibile effettivamente questa impresa. Grazie Fabrizio. Ma l'Elisir marchigiano, dove sta? Che veniamo a berne un po' anche noi. No, non c'è più Fabrizio D'Ancona. Intanto vi do questa, che non riguarda le Olimpiadi, ma l'altro versante, quello meno olimpico, per cui qualcuno prima chiedeva la sospensione a tregua olimpica. Allora, François Gillet, ex portiere capitano del Bari, ora al Torino, è formalmente indagato dalla procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse. A Gillet, convocato dagli inquirenti baresi per un interrogatorio con riferimento a presunte combine su partite giocate dai biancorossi nel campionato di Serie B 2008-2009, è stato notificato nei giorni scorsi l'invito a comparire nel comando provinciale dei carabinieri di Bari, dove si è tenuto oggi l'interrogatorio, è giunto accompagnato da un legale, mentre, ricordo, si è presentato anche Ranocchia, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ben iniziata la semifinale della spada a squadre, Dario Ricci resterà con noi per viverla insieme. Come sta andando? Stai chiedendo a me, Carvaio? Io purtroppo sono in movimento verso la fencing goal. Allora muoviti verso la gara di Dario, muoviti con calma verso la fencing goal, tanto io lo sto guardando al tele. Tu stai con noi collegato. Allora, io oggi ho un sacco di messaggi del tipo: ciao Carlo, ieri ho visto l'Inter, ho sentito la telecronaca di Bruno Pizzul, un grande, mi ha fatto piacere risentirlo, uno spettacolo anche i tifosi dell'Aidux Palato, saluto a Roberto Interista. Poi ne ho un altro che è questo: Inter in Coppa UEFA con il commento di Pizzul, sono ringiovanito di 15 anni, scrive Giorgio. Allora, ieri protagoniste senz'altro le ragazze del Fioretto, ma nella serata televisiva grande protagonista Bruno Pizzul. Ciao Bruno, grazie. Ciao, ma non allarghiamoci troppo, dai, è stata una comparsata così estemporanea su invito del direttore Mentana, che probabilmente, come sempre curioso, ha voluto verificare se mi ricordassi ancora come si fanno le telecroniche, mi ha mandato a parlare di questa partita, l'ho fatta naturalmente molto molto volentieri. Non vorrei però dare l'impressione di colui che sgomita per rientrare e togliere spazi. Ma sai, l'impressione mi sembra quella contraria. C'è un sacco di gente che rimpiange. Io, guarda, non ho nulla contro quelli che urlano, contro quelli che. Cioè, non ho niente contro di loro, salvo quando non trasformano le partite inutilmente in guerre sante, o quando esagerano vedendo clamorose occasioni laddove non ci sono. Però non so se ti offendi, oggi scrivendo un articolo ho definito le tue telecronache come un meraviglioso abito blu. Dai, ti ringrazio, no? Ma io credo che tutto sommato sia una modalità comunicativa abbastanza diffusa, quella del tono molto enfatico, no? Del linguaggio così un po' sopra le righe, che vale non solo nella cronaca sportiva, ormai anche quando si leggono i titoli del telegiornale, no? C'è questo tono così ansioso, questo andare di corsa, questa sensazione che ci sia qualcosa che ti scappa sotto. E secondo me, insomma, riuscire a essere un pochino sì, così più tranquilli, senza vedere miracoli, colpi sensazionali a ogni più piccola azione, forse aiuterebbe un po'. Sì, io penso che il telecronista debba essere come un grande arbitro, no? Che ti, o come una grande guida che ti accompagna attraverso la partita. Sì, ma io credo che sia anche di fondamentale importanza non prendersi troppo sul serio. Certo. C'è la tentazione, sai, è un tipo di lavoro che ti dà visibilità, la gente ti riconosce per strada, e allora è facile perdere il senso della misura e trasformarsi in personaggio. E quindi un pizzico di moderazione anche sotto quel profilo lì non guasterebbe. Sì, c'è uno juventino che scrive: persino guardare l'Inter è piacevole con Pizzul, pensa un po'. Per chiudere, Bruno, dimmi invece la partita che hai commentato, dimmi di questa Inter. Non male, è chiaro che la caratura dell'avversario era di una modestia superiore a quella addirittura che si pensasse. Però ho visto una squadra molto bene organizzata, con dei movimenti soprattutto nell'azione d'attacco molto molto interessanti. E anche una certa voglia. Schneider era un po' di tempo che non lo vedeva così. Addirittura quasi adombrato quando l'ha cambiato, no? Ha fatto una prima mezz'ora straordinaria. E poi ci sono alcuni giovani interessanti. Quel Guarin lì non è mica male, Non ovviamente. È un po' lento? È un po' lento, ma è fisicamente molto forte, ha due piedi notevoli. Si è esibito in alcune conclusioni non sempre precise, però molto molto potenti, utilizzando con uguale disinvoltura il destro e il sinistro. Sì. E fisicamente è molto ben messo, quindi potrebbe essere un buon elemento. Coutinho può essere importante? Sì, ma si percepisce comunque un certo feeling tra la squadra e l'allenatore, no? Sì. Era da verificare, insomma, se un tecnico così giovane come Spremaccioni potesse mettere d'accordo uno spogliatoio, no? Tradizionalmente abbastanza bollente come quello dell'Inter. Pare che, insomma, la situazione in quest'ottica sia abbastanza buona, tutto da verificare, ovviamente. Bruno, ti ringrazio e ti aspetto per altre telecronache, ti aspettiamo tutti. Grazie a Bruno. Pizzul 800 24 00 24, il numero verde. Intanto Italia 2, Corea 5 nelle prime stoccate, prima Montano rotocca ad Occhiuzzi, le prime stoccate di questa semifinale della spada a squadre. Volevo leggere qualche altro messaggio, perché ce ne sono davvero tanti tra quelli cui che ieri hanno apprezzato questa sorpresa di La 7 con Pizzul di nuovo in postazione di telecronaca. A proposito di Stramaccioni, mando la telecronaca di Pizzul, ma sì, sentiamone un pezzo di telecronaca di Bruno. Due partite in Europa League contro lo sconto di riga. Attenzione, ho la possibilità per l'Inter, palla a porta vuota, mantiene a lungo il possesso e poi la mette comunque dentro Schneider. Azione molto molto bella da parte dell'Inter, in qualche modo abbiamo trepidato perché sembrava che non ci decidesse mai a tirare in porta Schneider, alla fine però ha fatto fuori il dribbling. Fisica intanto ancora Schneider. Nagatomo entra in area, la mette in mezzo e quello che era successo anche in precedenza succede di nuovo, un rimbalzo fasullo del pallone, inganna il portiere. Vi ricorderete che anche in occasione di un tocco all'indietro di un compagno il portiere si era trovato in difficoltà, ora sul tiro che francamente non sembrava avere nessuna pretesa da parte di Nagatomo, l'Inter va al raddoppio. Attenzione, no. Ora c'è Coutinho, la mette dentro con un colpo di biliardo. Grande applauso a Bruno Pizzul. ho un sacco di messaggi in proposito, guardate, farò in modo di girarli a Bruno, di far avere a Bruno Pizzo i messaggi che oggi state inviando, compresa Marina da Milano: se fossi napoletana canterà il signor Pizzo torna a casa, aspettate, glieli giriamo tutti a Bruno, chissà che si decida a fare non solo queste comparsate ma qualcosa di altro e di diverso. Dario Ricci in cammino verso la Fencing Goal, dove la semifinale è appena, insomma, è all'alba, questa semifinale del Fioretto. Siamo 8-5 per i nostri avversari. Occhiuzzi è ora in pedana, Andrea dalla provincia di Lucca è invece in linea. Ciao, buongiorno. Ciao Luca. Ciao Andrea, scusa. Ciao. Ciao, dimmi. No, innanzitutto io volevo esprimere la mia felicità per aver sentito in nuovo la radiocronaca di Pizzul tramite i miei amici, che loro appassionati di calcio ogni volta me le fanno sentire, quindi anche per me è stato veramente divertente risentirlo in televisione. Io volevo... anch'io faccio tirassegno. E sono di Viareggio, quindi abito vicino alla città di Lucca. A dirla tutta, ci alleniamo insieme. Sì. E quindi io innanzitutto volevo fare un ringraziamento a tutti gli atleti e tecnici che hanno fatto i sacrifici per arrivare alle Olimpiadi e ora ci stanno regalando. Senti, ma toglici, scusami Andrea, toglici un po' dall'angoscia. Che cosa? Prima abbiamo sentito Luca Tesconi che sta tornando a casa con la medaglia in tasca, un po' preoccupato per i festeggiamenti che lo aspettano. Infatti io stamattina ci siamo sentiti per telefono e gli ho detto: oh, dimmi a che ora arrivi, perché ovviamente io, insomma, per il rientro in patria voglio essere lì, ecco, insomma. Fondamentalmente è questo. Averlo seguito alla TV è stata una cosa veramente incredibile. Anche lui è la prima cosa che gli ho detto quando ci siamo sentiti, ho detto: Luca, sei famoso, io te lo dico, perché eri in mondo visione, qui ti seguivano veramente tutti, anche alla sezione dove ci alleniamo avevano preparato televisori, l'hanno seguito tutti con grande emozione, insomma. E tu a Rio 2016 ci vai? Ovviamente io e Luca daremo tutto per andarci insieme questa volta. Io sono un pochino più giovane di lui, quindi non demoralizzo, però speriamo, faremo di tutto per andarci, insomma, sì. Dimmi. Chiamavo per un attimo, per fare un attimo intervento in difesa del tirassegno, perché spesso a me dispiace, insomma, per questi attacchi che vengono fatti nei confronti del tirassegno, perché vengono utilizzati delle armi. Io posso assicurare a tutti che a noi atleti che lo facciamo per sport non siamo degli armaioli appassionati d'armi e guerrafondai. Io e Luca conosciamo a fondo le nostre armi, perché lui ora ha partecipato alle Olimpiadi, è ovvio che se aveva un guasto doveva essere in grado di poter sistemare la propria arma per poter proseguire la competizione. Certo. Però non siamo appassionati d'armi. No, la trovo una polemica, guarda, ti dico la verità, la trovo una polemica stupida e stucchevole questa sulle armi, le spade, i fioretti. Sono discipline che hanno una lunga storia, che hanno una lunga tradizione, che hanno anche un fascino particolare, se vuoi, e le trovo stupide e stucchevoli le polemiche di questo tipo, Luca. Andrea. Sì. Io penso, cioè, una mazza da golf o da baseball può essere molto più pericolosa. No, ma non è nemmeno, guarda, non è nemmeno questo il discorso, però semplicemente sono discipline olimpiche, olimpioniche, che hanno tanta storia, quindi non veramente trovo senza senso polemiche di questo tipo. Senti, in bocca al lupo per Rio, ci sentiamo prima. Grazie mille, spero di potervi richiamare anch'io perché sto portando una medaglia in patria, insomma, speriamo veramente. Mi scuso per tutte le volte che ho detto spada e non sciabola, naturalmente di questo stiamo parlando, degli sciabolatori, 11-10 in questa semifinale con la Corea, con Tarantino in pedana. Tornerei per un attimo sull'Inter, perché l'Inter di ieri sera, avete sentito Bruno Pizzul, c'è feeling tra la squadra e il tecnico, almeno questa è l'impressione all'occhio clinico del vecchio Bruno. Pensate che perfino a Cassano è piaciuta l'Inter di ieri sera. Da lontano mi sento strama, mi giro, Cassano, oh strama, bene, oh. questo era ovviamente l'imperdibile imitazione di qualche tempo fa di Stramaccioni a Cassano, che ogni volta che sento faccio fatica a trattenermi dal ridere. Torniamo seri e sentiamo invece cosa ha detto davvero Stramaccioni ieri sera sulla sua Inter. Vedere uno stadio così è... io posso solo fare i complimenti, perché è fantastico. E il fatto che la squadra abbia perso e che il pubblico sia stato così è di esempio. Sicuramente da un punto di vista atletico non stiamo ancora bene e abbiamo cercato di giocare il nostro calcio basato sulla qualità, sul palleggio, e sapevamo che se invece l'audio che avesse messo la partita sui binari della corsa avremmo sofferto. Questo era Stramaccioni dopo la gara di ieri sera. Dario Ricci, che punto sei? Dove sei? Qua ho di fronte il Tamigi, vedo che qua il pulmino la sta prendendo un po' larga, però piano piano arriviamo. Tra l'altro oggi, Carlo, che dicevamo, scende in pedana la regina dei giochi, che è l'atletica, ecco, non sai come me ne sono accorto guardando il calendario, ovviamente, ma dal casino in metropolitana, assolutamente, c'era al St. Pancras International, la stazione che dove si prende la linea alla Javelin, che in 7 minuti porta al Parco Olimpico. Arrivo e c'è una fila mostruosa di persone, almeno un quarto d'ora d'attesa. Dico, ci sarà qualche incidente, qualche problema, poi ho detto, ah no, è iniziata l'atletica. È incredibile come si accenda l'Olimpiade appena comincia a mettere le scarpette chiodate su quella pista magica. Tanto ti aggiorno io, 14 pari tra Italia e Corea nella semifinale. A proposito di atletica, c'è anche una protesta, che è quella di Asafa Powell, una delle superstar dei 100 metri, che protesta appunto per la frequenza con cui viene sottoposta a controlli antidoping a sorpresa, 3 in 5 giorni, in particolare dopo l'ultimo ieri in tarda serata, quando l'hanno svegliato mentre già stava dormendo nella sua stanza del villaggio olimpico. Il manager Paul Doyle ha raccontato che era alle 22:15, quando Asaf era già a letto, si sono presentati i commissari dell'antidoping. Non scherzano niente questi. Guenda, provincia di Vicenza, buongiorno. Ciao. Ciao, volevo intervenire con una cosa che ho notato, no? Che come sempre quando un atleta sale sul podio con una medaglia, sempre abbiamo vinto l'oro. E se perde la medaglia ha perso. Adesso la Pellegrini, io credo che abbia regalato al nuoto italiano tutto quello che poteva regalare. È triste sentire continuamente questa polemica, e cosa ci sarà, cosa non ci sarà. Magari non c'è niente, semplicemente e non era in forma come le altre atlete. Non può non esserci un motivo perché un atleta non arriva sul podio. Sì, può esserci, come no? Penso che al nuoto italiano abbia già dato tutto quello che poteva dare. Federica Pellegrini è un fenomeno, ok? È la più grande nuotatrice della storia dello sport italiano, e nessuno si offenda. Io credo che sia la delusione e anche la voglia di capire, perché se una nuotatrice così grande arriva in condizioni così precarie, e non vale solo per lei ma vale anche per tutti gli altri nuotatori, alle Olimpiadi, vabbè, domandarsi perché è il minimo che si possa fare. Non troverei neanche giusto, ma non solo dal punto di vista giornalistico, men che meno dal punto di vista campanilistico, da italiano o tutte queste cose. Semplicemente io vedo una grande atleta che arriva alle Olimpiadi, delude in maniera evidente, e mi domando perché. Cos'è successo? Mi domando se i troppi cambi di allenatore abbiano influito. Mi domando perché non sia riuscita nelle gare più importanti ad essere Federica Pellegrini, e mi sembra una domanda del tutto legittima, non trova? Sì, sicuramente, diciamo che ha anche perso il suo allenatore, e secondo me per un atleta è stata una perdita grandissima. Certo. Però come possiamo sentirci delusi noi che magari la guardiamo e la ammiriamo da casa, io metterei la delusione che può prendere lei in questo momento, e sentire incalzare continuamente che siamo delusi, secondo me non è è una gran cosa. No, non è una gran cosa, può far male, ma fa anche parte del gioco, come tante volte le abbiamo detto che è appunto una campionessa straordinaria. Adesso a questa campionessa straordinaria domandiamo ma perché? perché in queste Olimpiadi hai fallito. Non basta dire liquidare la questione con due parole, ma anche perché Federica Pellegrini, espressione che mi piace pochissimo, però è un patrimonio dello sport italiano, non so quanto appunto abbiano influito i riflettori, i cambi di allenatori continui. Abbiamo visto Federica tornare a vincere, tornare ad essere grandissima con Lucas, con cui poi c'è stata questa separazione, poi troppi allenatori cambiati e poi le polemiche per questo allenarsi insieme ad altri nuotatori, insomma cose poco chiare, anche cose piuttosto antipatiche. Legittimo domandarsi dunque i motivi di questo fallimento, non basta liquidare tutto con un'alzata di spalle, secondo me. Grazie Gwenda, molto gentile, è stato un piacere. 18 a 17 per noi, 18 a 17 per noi nella semifinale della sciabola a squadre contro la Corea. Andrea, provincia di La Spezia. Pronto, salve. Salve. Yuri Floriani in finale nei 3000 siepi. Ti do anche questa notizia. Beato lui. Beato lui. Io volevo intervenire a proposito della ormai un po' stucchevole polemica a proposito tra la lotta Agnelli della FIGC. Sì. Io onestamente non capisco se Agnelli si rende conto che aveva un'occasione d'oro per buttarsi alle spalle Calciopoli, anche per farla dimenticare. Ricordiamoci che in Calciopoli alla fine la Juventus è quella che ha pagato, perché è indubitabile che sia la squadra che ha pagato più di tutti, ma non è che abbia pagato per niente. Sì. Quindi dobbiamo anche dire che da Calciopoli alla fine la Juventus rinasce molto più forte di prima. Rinasce in un momento che la rimetterà praticamente al centro del calcio italiano, quasi senza avversari. È l'unica squadra che ha lo stadio di proprietà, è l'unica squadra che ha un piano economico. Sì, però il prezzo è vero, Andrea, tutto vero. Rinasce più forte di prima su altre basi, più credibili, più moderne anche se vogliamo, ma il prezzo da pagare è stato elevatissimo e il tempo è stato tanto per arrivare dove è arrivata ora la Juventus, che ora si trova per l'appunto anche per contingenze storiche in un momento in cui penso sia in grado di dominare il calcio italiano nelle prossime stagioni, io credo. A proposito delle polemiche di Agnelli nei confronti della giustizia sportiva, anch'io le ho trovate fuori luogo e mi trovo d'accordo, come spesso succede, con ad esempio con Mario Sconcerti, che scrive un'analisi questa mattina sul Corriere della Sera, dicendo che è la stessa giustizia con cui fino a ieri la Juve ha cercato di trovare un compromesso, la stessa blandita nei giorni scorsi, nelle lunghe ore in cui si è cercato un accordo. Fosse stato accolto il patteggiamento, avrebbe la Juve parlato ancora di dittatura? Non si può portare avanti una trattativa con un'istituzione e definirla poi inadeguata e scorretta quando la trattativa fallisce. Quindi mi trovo su questa linea di pensiero. Fulvio da Parma. Ecco, volevo parlare prima di tutto, buon pomeriggio. Gente. Buon pomeriggio. Volevo parlare a proposito di Pizzol, che Pizzol è un grande anche non solo nel calcio. Io ho avuto l'occasione, l'onore di andarlo a prendere in macchina per le presentazioni nel lontano 95-96 sì. di una squadra di ciclismo, la Gevis, che presentava lui la squadra alla stampa. Era un fenomeno. Quello solo così. È un grande personaggio, certamente. È grande, sì. grande. È un personaggio di grande intelligenza. Mettiamola così e tagliamo la testa al toro. Facciamo così. Grazie Fulvio. Sta guardando le Olimpiadi anche se non c'è Pizzul? No, perché sono in macchina. Non dico oggi, in sti giorni sta guardando qualcosa. Sì, anzi, tutte le sere per quello lì. Mi affascina lo sport di certo. qualsiasi tipo. Certo, soprattutto al massimo livello come stiamo vedendo in questi giorni. C'è chi insiste, lei ha fallito, l'appello è arrivata quinta e non centesima, e allora va bene, allora una grande Olimpiade per Federica Pellegrini. Se vi piace così, dico così, ma non lo penso, non ci credo e continuerò a sostenere il contrario. Italia 20, Corea 19, siamo ancora lontani dall'esito finale. Dario Ricci credo sia lontano anche dall'obiettivo. Assolutamente sì, però a questo punto... diciamo, confido nell'autista e nella nostra squadra e punto direttamente alla finalissima. sì, conviene così. Senti, oggi ho letto una notizia curiosa per chiudere, caro Dario, con te, sulle preferenze degli inglesi riguardo agli sport. Abbiamo parlato di queste polemiche secondo cui i biglietti erano introvabili, però gli stadi erano vuoti, eccetera, eccetera. Allora, ho la top 10 degli spettatori che hanno seguito gli eventi. Primo, il ciclismo maschile su strada erano in 1 milione, quindi 700.000 per il ciclismo femminile su strada. Poi al terzo posto il calcio maschile per Gran Bretagna Senegal 74.450. Poi sai chi c'è al quarto posto? Non lo so, la pallavolo forse? No. Prova ancora. No. Il badminton? No. Prova ancora. Wimbledon? No. Il calcio femminile. Ah, il calcio femminile. Gran Bretagna, Brasile è stata seguita allo stadio da 70.584 spettatori. Poi c'erano in 50.000 per l'equitazione, ma qui c'erano anche altri motivi. Caduto Dario Ricci, speriamo che non sia cascato nel Tamigi, ma ci auguriamo di no, naturalmente. Quindi 26.000 per il canottaggio, sport tradizionalmente britannico. Il tennis a Wimbledon 23.688. Tanti spettatori anche per beach volley e pallavolo 15.000, kayak 12.000 e basket 9.300 spettatori. Questa è la top 10 degli eventi più seguiti dagli inglesi o comunque direttamente alle Olimpiadi. Dunque siamo in chiusura, Italia, non faccio in tempo a darvi ovviamente il risultato finale di questa semifinale della sciabola a squadre. Siamo 23-21. Al 45, però, quando si arriverà al 45, vedrete che in un modo o nell'altro riusciamo ad avvisarvi nel corso dei giornali radio. Io ringrazio Franco Piantanita in redazione, Matteo Comes in regia. Domani e dopo lascio il microfono con grande piacere al maestro Claudio Arrigoni. Ci risentiamo lunedì alle 14. Ciao a tutti.